Radio 24 Reportage. Effetto Fukushima. L'Europa al bivio nucleare. Di Laura Bettini e Cristina Carpinelli. Giovedì 26 maggio 2011. Il Consiglio federale svizzero, per 4-3, decide di abbandonare gradualmente l'energia nucleare. È la consigliera federale Doris Leuthard, che dirige il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni. Le centrali nucleari, si spiega, dovranno essere disattivate alla fine del loro ciclo di vita e non saranno sostituite. L'ultima a chiudere i battenti sarà quella di Leibstadt nel 2034. Lunedì 30 maggio 2011. Alle 3 del mattino, il ministro dell'ambiente tedesco Röttgen annuncia un processo irreversibile. La Germania abbandonerà il nucleare. Stop immediato per le 8 centrali più vecchie, mentre le altre 9 chiuderanno entro il 2022. È l'effetto Fukushima o c'è di più? Ovvero, che cosa ha realmente spinto questi paesi a scelte tanto determinate? È vero che la catastrofe del terremoto tsunami e conseguente allarme nucleare in Giappone ha suscitato paura ovunque nel mondo, ma è sufficiente una generica paura della popolazione per convincere un paese a cambiare repentinamente una strategia perseguita per decenni? No, di solito no. Tanto più in materia di energia, dove investimenti e fabbisogno sono enormi e quotidiani, e i tempi di realizzazione degli impianti non brevi. Dopo Fukushima, i governi tedesco e svizzero hanno commissionato indagini approfondite sulla sicurezza delle loro centrali, con risultati non positivi. Ma anche questa è una sufficiente ragione per chiudere con il nucleare tout court? Gli svizzeri dipendono dal nucleare per il 40% della loro energia. I tedeschi per il 22%. Come faranno a sopperire al fabbisogno interno? Le domande sono tante. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, vive a Francoforte da anni ed evidenzia due aspetti per spiegare quello che è accaduto: l'ecologismo di fondo del popolo tedesco e le difficoltà del governo in carica. Credo che la scelta sia dovuta fondamentalmente a due sottoelementi, per così dire. La vicenda Fukushima ha rafforzato il Partito Verde, che in questo paese tradizionalmente è oscillato intorno al 10%, oggi nei sondaggi è intorno al 20%. In un momento in cui la coalizione di centrodestra al governo, una coalizione democristiana liberale, è certamente in difficoltà. Abolire il nucleare è anche un modo per strizzare l'occhio agli elettori ecologisti e al Partito Verde per un'eventuale coalizione futura tra la CDU e i Verdi. Eh sì, perché un anno fa la stessa cancelliera Merkel aveva prolungato la vita delle centrali nucleari tedesche, modificando una legge approvata dall'esecutivo rosso-verde di Schröder che prevedeva la fuoriuscita dal nucleare nel 2020. Ma dopo Fukushima, quindi a marzo di quest'anno, ancora la Merkel aveva deciso per la chiusura di 7 impianti tra i più vecchi ed una moratoria di 3 mesi per ridiscutere il prolungamento appunto della vita degli altri reattori tedeschi. Poi è arrivata la scoppola delle regionali con la CDU colpita e affondata dall'SPD, ma soprattutto dai Verdi. E di lì è scaturito il vento del cambiamento. Le cose sono andate diversamente in Svizzera, almeno secondo l'economista Massimo Filippini dell'Università di Lugano. La catastrofe di Fukushima ha accelerato i tempi decisionali. Penso che la riflessione di base era già presente, si stava valutando cosa fare con i nuovi investimenti, se promuovere questi nuovi investimenti in nuove centrali nucleari oppure no. Da una parte oggi la tecnologia nucleare ha perso in parte la competitività, cioè una tecnologia che presenta dei problemi sia tecnici sia economici. C'è il problema del trattamento, dello smaltimento e dello stoccaggio definitivo delle scorie radioattive. Comunque rimangono aperti il problema della sicurezza del funzionamento di questi impianti. Da un punto di vista più economico, nel tempo vi è stato un aumento dell'investimento iniziale per la costruzione della centrale nucleare. Vi è un altro punto sempre cruciale quando si parla di nucleare è il ruolo dello Stato, e soprattutto il ruolo dello Stato, quindi il principio della verità dei costi, soprattutto se si pensa alla responsabilità civile, vale a dire cosa capita, chi deve sopportare i costi in caso dovesse avvenire un incidente grave. La Francia è la leader indiscussa dell'energia nucleare in Europa, leader come produzione ma anche come tecnologia. E visto da Parigi, quello che accade in Germania e Svizzera è un colossale errore, così almeno dice a Gigi Donelli il deputato francese della UMP, Claude Gatignol. Alors, je vous réponds très clairement, il n'est pas question pour la France de suivre la très très mauvaise décision. Non è assolutamente il caso che la Francia segua la pessima decisione tedesca, una decisione che è un errore politico, un errore economico e che è fonte senza dubbio di grandi complicazioni per l'Europa intera. Non è possibile produrre i miliardi di kilowattore di energia elettrica che servono a un'economia sviluppata senza utilizzare anche il nucleare. Penso che la signora Merkel stia facendo un grosso errore politico e si dovrebbe ricordare che quando 2 mesi fa ha deciso l'arresto temporaneo di alcuni reattori, ha perso in un colpo solo il sostegno dei sostenitori di questa opzione e anche di quelli che ne sono contrari per ragioni ideologiche e che l'hanno portata a perdere le elezioni. Per quanto riguarda la Svizzera, c'è effettivamente una questione tecnologica specifica che si basa sul fatto che la Svizzera utilizza centrali di concezione americana raffreddate ad acqua, qua proprio come quella giapponese. Anche in questo caso però c'è un enorme effetto emotività, visto che non possiamo certo pensare che la minaccia tsunami possa riguardare un paese come la Svizzera. Insomma, molte cose sono accadute nella testa della gente, sul piano emotivo e dunque irrazionali. Ma le conseguenze saranno purtroppo invece vere, saranno economiche e saranno importanti, perché non è possibile rimpiazzare i miliardi di kilowattore prodotti correttamente dalle centrali nucleari. Jour et nuit par les réacteurs nucléaires. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Uscire dal nucleare non è affatto una scelta sbagliata o codarda. Maurizio Guandalini è altrettanto categorico di Gatignol. Autore di Green Italia con Victor Ukmar, Guandalini è un economista specializzato nel settore verde. Questo vuol dire anche avere una politica industriale, avere una capacità di una vision che ormai supera l'arco di 10, 20, 30 anni. La Germania, se noi analizziamo gli aspetti macroeconomici, è un paese simile all'Italia, perché anche la Germania è impegnata nel settore manifatturiero, ha una dipendenza energetica del 60-61% dall'estero, noi abbiamo l'85%. I conti ormai dicono che le energie rinnovabili sono in grado di supplire è indubitabile, questo lo dicono le ricerche, ma lo vediamo anche all'atto pratico. Sia in Svizzera che in Germania la scelta di indirizzo del governo deve essere ancora approvata dal Parlamento, ma se tutto andrà come si aspettano i due esecutivi, come si sopperirà alla chiusura delle centrali? Gli svizzeri hanno un piano preciso, ci dice il professor Filippini. Nei documenti del Consiglio federale si parla sempre di nuova politica energetica, allora si pensa anche a una riforma fiscale ecologica, quindi ad introdurre delle tasse incentivanti sul consumo di energia, all'adozione di standard elettrici più restrittivi e anche un ruolo importante delle aziende elettriche con dei sistemi di regolamentazione che incentivano a vendere meno, non a vendere di più. Senza il nucleare la Germania si priverà del 22-23% dell'energia necessaria al paese, ma la Germania è il motore d'Europa, la sua economia è in netta crescita, e allora perché scherzare con il fuoco per un mero calcolo politico? Credo che giochi anche un altro aspetto più economico, credo che ci sia dietro la decisione una scommessa dell'establishment economico e politico tedesco. Questo è un paese che nel giro dei 10 anni è diventato forse il maggiore esportatore mondiale nell'industria ambientale e che continua a crescere. Quindi lasciare, diciamo, il business della costruzione delle centrali nucleari a francesi e americani e inserirsi su tutt'altro filone. Esattamente.